Fare. To do. Io faccio. I do. Tu fai. You do. Lei fa. You do. Formal. Or she does. Lui fa. He does. Noi facciamo. We do. Voi fate. You do. Loro fanno. They do.